accendi la bastarda. In bocca al lupo. In bocca al lupo, Jake. Su Rock Web Radio, Gianluca's Rock Selection. Lost inside a cobweb, unable to move the body, feeling like an insect, praying gods are paralyzed. Repelling the fear, hearing your scream, fighting the tears back, time gives no chances. Ok, benvenuti ad una nuova puntata di Gianluca's Rock Selection. Questa settimana abbiamo ospiti, e che ospiti. Questa sera ci sono venuti a trovare i Kismet, da qui vicino. Comunque diamo la parola a loro e presentate insomma brevemente chi è venuto questa sera con me a parlare del vostro nuovo disco che si chiama Shades of Clarity. Benvenuti a Rockweb Radio innanzitutto. Ciao Gianluca, grazie. Grazie Gianluca. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Questa sera hai niente po' di meno che Albert, il cantante. Crives, chitarra. Mirko, l'altra chitarra. Salutiamo gli altri due ragazzi che sono voi a fare le prove. Che è Alberto alla batteria e Carlo al basso. Ok. Allora, cominciamo subito con la vostra prima domanda. I Kismet sono assieme dal 1995, una cronistoria della band e il significato del nome. Aspetta, dal 95? Dal 95, sì. Siamo partiti come tutte le band, no? Nel 95, tutte le band. Come tutte le band, giustamente. Le band. No, dicevo, inizi a suonare nella quella che definisci saletta, sala prove, no? Sistemi la classica stanza, il classico garage dove puoi suonare, sfogare, dar sfogo proprio a questo spirito, desiderio che hai di scrivere brani, di suonare. Noi abbiamo sempre suonato brani nostri. La saletta che è cresciuta con noi anche, tra l'altro. Sì, che è ancora il nostro ritrovo, ecco, è la nostra sala prove che chiaramente negli anni è migliorata d'aspetto, però è sempre, diciamo, la nostra casa dove produrre musica e scrivere canzoni nuove. Questo dal lontano 95, insomma, fino ad oggi. L'origine del nome credo abbiamo scelto quasi subito, nel giro di un anno, due, anche meno, sì, è stato scelto subito da Crives, e magari lui può raccontare bene come è nata, ecco, l'idea del nome Kismet. Beh, il nome Kismet è stato tratto da un fumetto, insomma, dalla mia passione per i fumetti, da una puntata di Nathan Never, ricordo che era il periodo in cui cercavamo il nome di una band come tutti i ragazzini, e ci siamo imbattuti in questa puntata bellissima, tanti perdoni dei mari di Nathan Never, poi c'era la parola Kismet, per i curiosi, insomma, andate a cercare pure il fumetto e indovinate cos'era, insomma. Che è più bello, insomma. Mi lasciamo un attimino di mistero. Però il significato si può anche dire, non è che c'è il sotto segreto del sottotono. Il significato di Kismet è comunque destino a cui l'uomo non può sottrarsi, e noi ci siamo sempre sentiti legati a questo concetto anche di destino, insomma, che comunque è presente anche un po' in tutti i nostri lavori, un po' a livello discografico, da Rooms of Fly fino a Shades of Clarity. Ok, il primo brano si chiamava Cobweb ed è tratto appunto dal disco Shades of Clarity. Ci potete spiegare un po' la genesi di questa canzone, il significato? Beh, è un brano che suoniamo, che prima di inserirlo nel disco abbiamo suonato diverse volte live, però in studio poi è stato cambiato, soprattutto nel ritornello, quindi suonavamo in live e l'abbiamo testato diverse volte in live, anche mi pare nel primo tour in Inghilterra con un altro ritornello. Diciamo che il concetto a livello di liriche non è cambiato propriamente, è che poi a livello di impatto sonoro abbiamo deciso di puntare sul ritornello, questo in studio, che fosse più, diciamo, più accattivante, più groovy, perché si usano questi termini così cool, così catchy, ma al di là, insomma, dei termini cool, ecco, cioè, avevamo bisogno di una spinta maggiore nel ritornello, credo che ci siamo riusciti poi in studio ad ottenere. Non convinceva nessuno, ma sì, è normale, chiaramente la genesi di un brano parte live e poi arrivi poi in studio e cerchi di perfezionarlo, ecco. Vorrei solo ricordarvi che siamo a Cerea, e quindi usare sempre la parola cool non è che sia il massimo. Bravo, salutiamo tutti gli abitanti di Cerea che ci stanno ascoltando. No, comunque però, questo discorso per evidenziare il fatto che noi testiamo molto i pezzi live prima di portarli in CD, insomma, portarli. Quindi ritenete che sia importante prima testare i pezzi? Beh, noi ci consideriamo una band live, siamo una live band veramente. Sì, praticamente ancora. La domanda in realtà chiedeva la genesi del pezzo, ci siamo persi. Beh, la genesi è che è nato live. La genesi è così, nasce tutti i nostri pezzi, nasce in sala prove, gemmando e lì che altro volevo chiedere, visto che comunque è un pezzo in inglese, il significato delle liriche anche, se ha un significato, diciamo, vostro. Sì, diciamo, il disco a livello di liriche, di concetto, diciamo, ripercorre un po' quelle che sono le sfumature della chiarezza, ovvero una sorta di come dire, di modi di rispondere, di voler, diciamo, in qualche modo raggiungere una verità in una società, in un mondo in cui, diciamo, si è per certi motivi bloccati. E Cobweb, che è un intreccio, è un qualcosa che la tela del ragno che ti blocca, che ti mantiene intrappolato e tu non riesci, diciamo, in qualche modo a scappare, ad uscire fuori e a reagire, insomma. Quindi è una situazione di stallo e tu cerchi di dimenarti, di uscirne fuori, però incontri delle difficoltà dovute, diciamo, nel brano, diciamo, è abbastanza criptico, ma è, diciamo, la società o comunque qualcosa che ti tiene fermo. Okay. È un opener perfetto come Cobweb, come concetto. Ok. Andiamo avanti sempre con un altro brano tratto dal disco Shades of Clarity. La prossima canzone si chiama Stay Alive. Rock Web Radio. Web Radio. You are listening to www.rockwebradio.it, the best of Italian and international rock. Search for rockwebradio.it on TuneIn. You can listen to rockwebradio.it from your favorite player. Search for Rockweb Radio on Facebook. Send your email to rockwebradio.it@gmail.com. Your music is on air. Not a lifestyle, just life. Rockweb Radio. Stai ascoltando www.rockwebradio.it, il meglio del rock italiano ed internazionale. Cerca rockwebradio.it su TuneIn. Puoi ascoltare rockwebradio.it dal tuo player preferito. Cerca rockwebradio su Facebook. Scrivici su rockwebradio.it@gmail.com. La tua musica in onda. Not a lifestyle, just life. Rockweb Radio. Done. E allora, bentornati a Gianluca's Rock Selection, qui su Rock Web Radio. Come sempre, ospiti Kismet. Adesso abbiamo tantissima carne al fuoco, ragazzi, perché abbiamo da parlare di Stay Alive, di Clarity, e abbiamo già i commenti. Simonessa chiede, vogliamo i Kismet in Toscana? Simonessa, veniamo subito. Arriviamo di corsa. Ecco, domani siamo lì. Trovaci da suonare, un posto da dormire e da bere. Zona Volterra, magari. È una fiorentina. Pisa. Bellissime quelle zone, ecco. Bella la Toscana. Non necessariamente in quest'ordine, anche qualcosa da bere intanto. Sì, da bere. Qualcosa da mangiare e poi suonare. Ok, Dear Sister chiede una domanda per i Kismet. Qual è stata la prima canzone che hanno scritto insieme? Beh, la prima canzone che ogni tanto, tuttora suoniamo, è Two Months Through the Hell, che è tratta dal nostro primo disco, primo demo, Rooms of Lie. EP. È il primo EP che abbiamo registrato nel 2001. E quella canzone lì l'abbiamo suonata in realtà live la prima volta nel 99, il primo concerto live, cioè, 99. Quindi è una canzone che ha ben, non so fare i conti perché... Il maggiorenne. È maggiorenne. Una maggiorenne. È una canzone maggiorenne. Abbiamo tipo 15-16 anni. Sì, no, è maggiorenne. Ma è un pezzo... Quasi no, nel 99 però l'abbiamo scritta prima. Sì, l'abbiamo scritta prima. Sì, è vero. Livello embrionale del pezzo del 95-96. Comunque sì, c'è un altro ha quasi 20 anni, diciamo. Sì, ha quasi 20 anni. Ha portati anche bene, insomma, tutto sommato. Bene, bene. Riguardo le canzoni, Stay Alive, Clarity. Beh, Stay Alive è un po'... parla un po' della vita che fa una band in tour, che fa una band che prova, diciamo, a toccare il successo, comunque la gloria, con le dovute proporzioni, insomma, è quello che affronta, diciamo, appunto all'interno di delle grandi difficoltà, dei magoni iniziali, sì, possiamo pure dirlo. Infatti ha dei riferimenti su, diciamo, i viaggi. È una canzone che ho pensato, che ho scritto in realtà durante il primo tour in Inghilterra, e poi parla anche, ci sono alcune vicende, alcuni dettagli su sto pensando ad esempio alle birre scadute che ci hanno dato, mi ricordo, ad un locale anche vicino alla nostra zona, ci hanno dato una cassa di birre scadute. Possiamo anche nominare il locale. Non me lo ricordo. Era sotto sopra di Este, mi ricordo, ci hanno dato una cassa di birre scadute. Vabbè, però insomma, cioè, tutte quelle che sono siete ancora vivi, band, siamo ancora vivi e cerchiamo, insomma, di Cosa ho detto di sbagliato? Te lo diciamo dopo. È vero, forse ho già capito. Vabbè, ad ogni modo... Comunque viene forgiato nel rock and roll. Certo. Ma certo, tutte quelle esperienze servono, perché poi quando sei sul palco e riesci a suonare davanti a un pubblico che poi canta insieme a te, allora lì senti che sei realmente vivo. Per cui Stay Alive non è sopravvivere in modo passivo, ma sentirsi vivo, diciamo. Sentirsi vivo e sentire che il tuo canto, il tuo grido è... E diciamo è più forte rispetto a tutte quelle che sono le difficoltà che una band incontra. È quasi un teniamo botta, insomma, nonostante... No, non è un teniamo botta, è sentirsi vivi appunto con quando poi sei sul palco e suoni la tua musica e canti e il pubblico ti risponde, che siano 5 o 100 o 1000 persone. Ok, e Clarity? Beh, Clarity come brano, ecco, questo Clarity è un brano, a differenza degli altri che sono nati in sala prove, un brano che in realtà è nato un po' in studio, diciamo, un po' non gemmando proprio, è nato da un'idea di chitarra, da un riff di chitarra, e poi l'abbiamo un po' assemblato e costruito prima di entrare in studio, ed è venuto fuori poi un brano che ha in qualche modo anche dato il titolo al concept, o almeno parte del titolo, parte del titolo, e racchiude secondo me perfettamente quello che è il concetto vero e proprio, questo bisogno di chiarezza, di riuscire a nel ritornello dico stand up and run, alzati in piedi, corri, e anche se sei in una via, in una situazione scura, cerca di trovare una chiarezza, di trovare una risposta, ecco. Perfetto, un'altra domanda per voi a proposito del live performance, visto che ne parlavamo prima, no? Come sono state finora, alla luce del fatto che in tutti questi anni avete anche suonato all'estero, ne parlavamo anche questo, e vi siete conquistati numerosi fans. Sì, sì. Parlate voi, ragazzi. Parlate voi, se no parlo solo io. Si interrompe fluido qui. È una voce bellissima, guarda, sei anche il nostro cantante. No, però insomma, parlate anche voi, visto che ci siete. Anche perché vi sta ascoltando, quindi speriamo che entri in chat più presto, mi sta ascoltando LR da Milano, quindi... Ah, siete... ciao LR. Ciao. Beh, che dire, come ho detto prima, innanzitutto noi ci sentiamo una live band, insomma, quindi per noi i concerti sono molto importanti, come molto importante il contatto e quel pubblico, insomma, quello che è il pubblico, che può essere, come diceva prima, 5-10 mila persone. Abbiamo avuto la fortuna di suonare all'estero, di in contesti veramente belli, insomma. A me piace ricordare sempre, siamo una delle poche band italiane che ha suonato l'Arena O2, la tua arena, come vuoi chiamarla, e credo sia stata 02 Arena per i più, esatto, prosaici. 02 Arena, e che oltre è stato un onore grandissimo per noi come ospiti speciali di questo Live Fest. È stato anche una botta d'adrenalina molto molto molto forte, però allo stesso tempo ci ha fatto capire che quella è la nostra strada, perché noi, beh, in rete puoi anche vedere la nostra esibizione. Certo, ho visto anche un filmato su YouTube, adesso, proprio la 02 Arena. La 02 Arena, esatto. No, per chi ci sta ascoltando, no, perché cos'è la 02 Arena? È un luogo enorme a Londra, sì, dove ci suonano, non so, Prince, ci suonato... ci suonano i grandi nomi, è grande, ci sta dentro tutta Cerea. Sì, secondo me sì. All'O2. Forse anche di più. E forse anche di più. È comunque grande come 300 l'O2 Arena. La parte più divertente è stata proprio... Tra l'altro era la conclusione del nostro primo tour, sì. E come tutti i tour, a parte che quello che succede in tour rimane in tour, però è stato un po' rocambolesco l'arrivo per via dei tempi e per via che, come si sa, United Kingdom non piove mai. No, no, figuriamoci. E ci si è rotto un tergicristallo durante la trasvolata dal Galles, che è proprio, se tu prendi la cartina, non è proprio attaccato. L'ho fatto anch'io, sono 5 ore di automobile. Bravissimo, prova a farle con una pioggia torrenziale e l'ho fatta anche con pioggia torrenziale, però senza un tergicristallo. Funzionavano i tergicristallo che hanno 5 velocità, non 3 come in Italia. Esatto, esatto. Infatti hanno una cultura molto elevata della pioggia. Questo ci ha procurato un ritardo notevole, quindi sound check, scaletta, è andato tutto in visibilio. Quello che resta, non dire certe parole. Non si può dire, si dice a scatafascio. Esatto, ma nonostante ciò, quando noi ci butti su un palco, noi siamo a casa nostra, e quindi è stato bellissimo. Ma infatti, io volevo dire, su YouTube si può vedere anche il filmato dell'autore, timore reverenziale zero. Per noi, cioè, no, eravate carichissimi, cioè, voglio dire, con un pubblico del genere è anche difficile non rimanere, voglio dire, coinvolti. Ha risposto molto bene il pubblico, chissà perché. Beh, Inghilterra, non so, come in Italia. No, cattiva, ma questa, ma anche l'Italia non è male, chiaramente, sì. non ha la base di cultura e curiosità che hanno un po', però io voglio spezzare, anche un po' meno di spazi grandi, voglio spezzare una lancia al pubblico italiano, perché se ne parla male, però in realtà non è sempre così, dipende. Ad esempio, noi abbiamo supportato quest'anno i The Pretty Reckless e abbiamo trovato, c'era sold out al Limelight, 1500-1800 persone, c'erano tutte le prime file, quindi un buon fans club, zoccolo duro dei The Pretty Reckless, che ci ascoltavano per la prima volta e cantavano insieme a noi. E ci saluto, li salutiamo perché so che ci seguono sul gruppo, su Facebook, quindi li salutiamo, sono veramente diventati amici e supporter, quindi... non è vero che il pubblico è passivo, è che forse a volte a volte vanno avanti certe band che non hanno qualità, e quindi metto anche sotto luce e critico le band, le proposte musicali, più che sempre il pubblico che sbaglia. Ma forse guardano troppo la televisione come punto di riferimento, senza dire aspetta che me lo vado a cercare. Ma secondo me dal vivo, quando suoni di fronte a un pubblico che non ti ha mai sentito una prima volta, devi dare il 110%. Quello sì. Perché non puoi pretendere che un pubblico sia subito, devi dare qualcosa in più. E quindi devi avere la fame, quella voglia di farti ascoltare. Però, se non ce l'hai, il pubblico non può, se ne accorge. Scusatemi, c'è Crives che sta vorrei puntualizzare il discorso del pubblico italiano o meno. Qua si sta parlando chiaramente, abbiamo nominato il Pretty Reckless, si trattava di un concerto, quelli che si definiscono solitamente grossi, cioè un pubblico che paga per andare a vedere un artista, ha trovato una band come noi che è piaciuta, e quella il discorso del pubblico italiano è che manca la curiosità. La differenza con il pubblico estero, perché anche in Germania abbiamo trovato, anche in Grecia tra l'altro, abbiamo suonato anche lì, la differenza è veramente della curiosità. Purtroppo qui in Italia stiamo perdendo, non tutti, però stiamo perdendo la curiosità nel scoprire band nuove, ci adagiamo. È molto più facile andare ad ascoltare le cover band, è molto più facile andare nel localino vicino perché c'era il gruppo di amici, ma cerchiamo poco il nuovo, siamo poco curiosi. Cazzo ragazzi, diventate curiosi. Non è proprio così facile. E ma questo comunque... monitor prendete i denti. Questo monitor. Perfetto. Dear Sister vi chiede, dopo Carry Me Down fate uscire un altro singolo? Beh, in teoria sì, però adesso ancora in fase... Fatemi dire che ci stiamo scannando per scegliere quale sarà. No, in realtà ci sono alcune cose insomma in ballo, però chiaramente uscirà un altro singolo sicuramente. Va bene, adesso è il momento di far ascoltare un'altra canzone. Questa si chiama Eternal Blame, loro sono i Kismet. Allora, sempre qui a Rock Web Radio con i Kismet, questa è Gianluca's Rock Selection. Il brano si chiamava Eternal Blame e qui abbiamo la chat che comincia finalmente a animarsi. Intanto abbiamo Dear Sister, alias Elena, che dice che era a Limelight di Milano a vedere voi e Pretty Reckless e vi chiede quali sono i ricordi di quella serata, se li avete incontrati. Allora Elena, ciao, intanto mi fa piacere, quindi è la conferma che in Italia se fai live buoni poi qualche riscontro lo hai, visto che ci segue e quello è stato un concerto memorabile per noi che comunque ci ha fatti conoscere anche a tutto il pubblico italiano, perché c'era veramente gente da tutta la parte dell'Italia. Corriere dal Salento, mi ricordo. Sì, mi ricordo, dappertutto. Cioè. E è stato bellissimo perché la band era con loro, con i The Pretty Reckless, abbiamo condiviso diciamo in qualche modo il backstage, e abbiamo scambiato le classiche quattro chiacchiere. E Taylor abbiamo fatto soundcheck assieme. Insomma, ci siamo intrattenuti particolarmente con il bassista, con Mark, il quale poi ci ha seguito anche durante il concerto e gli siamo piaciuti un casino. Infatti, alla fine è venuto a complimentarsi alla grande, anche mi pare il batterista, forse. Sì. No, tutti e tre gli strumentisti, di la verità. Taylor, chiaramente, Taylor era un po' più schiva, però insomma. A me ha pizzicato il culo, Taylor. Ahia! Vabbè, un po' più schiva, non proprio schiva. Ero di spalle. Ecco, comunque confermate sempre, no, che le band straniere si mettono lì tranquilli a guardare i concerti degli altri. Sì. È l'ennesima riconferma, perché me l'hanno detto anche. Sì, lui era lì nel lato del backstage, ci ha guardato, e mi ricordo anche quando mi giravo da quella parte mi faceva dei cenni, cioè, quindi vuol dire che insomma ha apprezzato, e questo fa piacere. Ecco. Perché per esempio i miei amici Metodica hanno suonato al Pistoia Blues Festival e il bassista dei Skunky Nancy, che doveva suonare dopo, era tra il pubblico e incitava i ragazzi, faceva i complimenti alla fine dei... Ma gli Skunky Nancy sono fantastici da questo punto di vista. Fantastici, ho conosciuto il batterista che è un energumeno, sembra un wrestler, e picchia come un forsennato, pur facendo pop rock alla fine, no? Io ne ho visti di batteristi, anche grind metal, insomma... Sì. E lui picchia più di tutti. Lo stesso Ace, il chitarrista, ha scuola di musica qui in Italia, tra l'altro si vede spesso ai concerti in mezzo alla gente, insomma, tranquillamente, insomma, alla fine lui quando suona è musicista, quando suonano altri è un ascoltatore come noi. Insomma, gli Skunky Nancy sono una bella band, belle persone. Sono anche una band planetaria, Dal bianco. Bello, dal bianco. Sì, qui c'è Bonnie Smart che dice: questo pezzo dal bianco a tutto il rock, su tutto il rock dal 2000 dopo Cristo in poi. Lo prendiamo come un complimento. Abbiamo dato il bianco anche in saletta adesso. Sì. Nota di corollario. In effetti, sì. Comunque, grazie, Bonis. Grazie, Bonis. Sei Bonis. Ok, a proposito proprio di questo brano, spiegateci l'origine e il significato di Eternal Blame. Beh, questo è un brano che tra l'altro ha scritto mio fratello, anche parte delle liriche, quindi sì, bella ragazzi. Eternal Blame è quel Bonis, grande Bonis. Eternal Blame, beh, so che infatti è un pezzo che può piacere molto Bonis, credo forse l'abbia ascoltato anche lui non è la sua preferita. Eternal Blame è un pezzo veramente, veramente, anche qui come Clarity, c'è tanto di Shades of Clarity dell'album stesso, del concerto. È un testo molto, vabbè, l'abbiamo scritto a due mani, infine io ho suggerito qualcosa. Io sono destro, lui è destro, cioè sono due mani a fin fine, quindi non è che scriviamo con... Ma io sono ambidestro, quindi... A meno che non avete quattro penne, no? Okay, descritto tutti... Ha un testo particolare, molto criptico, molto lascia molta libera interpretazione. E, quindi non la sai? No, lo so, è che basandosi su un concetto, a volte si parla quasi di follia in questo album. Scusate, mi stanno distogliendo. Abbiamo problemi tecnici. No, non è questione che ti sto cercando il... Ma non si sentiva. Si sentiva. È che okay. Diamo un attimo più di ambienza alla voce vostra. Ok, stavo dicendo, è un testo che gioca sul doppi sensi. Fondamentalmente doppi sensi. Aia. Sì, aia. Forse il più le zeppeliano. Prima parlavamo con noi. Di esoterismo di. Sì, no, ma più che esoterismo è veramente interpretabile. Può essere. È quello più interpretabile dell'album, tutto sommato. Come canzone, secondo me, è un singolo sotto traccia, perché potrebbe essere potenzialmente un vero singolo. Eternal Blame piace molto anche dal vivo, ricordo anche una bella risposta. Ricordo che The Pretty Reckless ha avuto una, sarà anche per il ritornello, forse un po' così cadenzato, che è molto diverso rispetto ai nostri classici ritornelli. Ha un inizio quasi Tool, quasi psichedelico, poi ha uno sviluppo che a un punto sembra anche trash, se vogliamo chiamare, quindi ha un percorso molto particolare come pezzo, è un pezzo un po' folle secondo me. Ok, riguardo al vostro quarto disco, appunto Shades of Clarity, includendo anche gli EP, qual è il significato e una descrizione di questa copertina in stile Parola in Libertà, quasi? l'artwork dell'ultimo album. Certamente, cioè, di Shades of Clarity, parlavo appunto del... un'opera di... un artwork concepito da Alessandro Cavestro e Michele Moretto, che poi hanno anche seguito e ci hanno prodotto il video del primo singolo Carry Me Down. E, è stato bello vederli lavorare a quel progetto, perché hanno avuto proprio carta bianca su Shades of Clarity, hanno ascoltato il disco e da lì sono partiti con questo concetto di in qualche modo creare per i brani chiave del disco e per tutti i brani una sorta di artwork, quindi estrapolare alcuni concetti delle liriche, non tutte le liriche intere, ma alcune frasi chiave, e riuscirle a tradurre in una forma artistica, quindi con dei disegni, e sono tutti, l'artwork è tutto creato a mano, quindi è stato lavorato, una specie di collage, sì, è stato tutto lavorato a mano, poi fotografato e poi post prodotto con sì, io non sono un grafico espertissimo, però ho visto proprio i vari, cioè come si dice, i vari campioni di pezzi di carta tagliati, quindi il testo è stato stampato, tagliato, bruciato, effettato, poi la fotografia è stata fatta, una fotografia è stata effettata, quindi è stato proprio concepito secondo me anche con un bel modo, cioè partendo insomma cercando di trovare proprio questo concetto di trasferire quello che sono i testi e la musica del disco in un lavoro proprio più, diciamo, concettuale, artistico, dal lato dell'artwork. Perfetto, non ci siamo dimenticati di Marta, di Marta, che vi ha detto siete bravissimi prima in chat. Ah, grazie Marta, sì, grazie, ma l'abbiamo ringraziata in chat e ti ringraziamo anche pubblicamente. È giusto, sappiamo anche che sei, che... mi pare, dove hai detto Gianluca? Di provincia di Bari, molto. Provincia di Bari e noi... di Bury, abbiamo suonato Bury in Inghilterra noi. Ciao Marta, noi dovevamo suonare quest'estate proprio in quelle zone, però ti prometto che... stiamo lavorando per tornare, perché certo, la Puglia è una zona interessante, non solo dal punto di vista insomma geografico, ma anche dal punto di vista culinario, perché a noi piace la buona tavola, ma soprattutto c'è un pubblico in Puglia che è piuttosto caldo. E poi abbiamo anche degli amici di Strigas, presto, che sono stati anche sì, ospiti da Davide Biagini a Rock di Sera, vengono spesso anche qui su al nord e, insomma, adesso sono un po' incasinati con alcune cose, ma insomma li aspettiamo. Mi spiegavano appunto che stanno pianificando un tour con un'agenzia e forse verranno anche dalle nostre parti, non si sa ancora, ma insomma verranno a fare un bel tour in nord Italia. Quindi io direi a questo punto andiamo avanti, prossima canzone è Happy Road, prima c'è il nostro piccolo advert, ma poi ritorniamo qui su Rock Web Radio. Not a lifestyle, just life. Rock Web Radio. Rock Web Radio. Rock Web Radio. You are listening to www.rockwebradio.it, the best of Italian and international rock. Search for rockwebradio.it on TuneIn. You can listen to rockwebradio.it from your favorite player. Search for rockwebradio on Facebook. Send your email to rockwebradio.it@gmail.com. Your music is on air. Not a lifestyle, just life. Rock Web Radio. Rock Web Radio. Stai ascoltando www.rockwebradio.it, il meglio del rock italiano ed internazionale. Cerca rockwebradio.it su TuneIn. Puoi ascoltare rockwebradio.it dal tuo player preferito. Cerca rockwebradio su Facebook. Scrivici su rockwebradio.it@gmail.com. La tua musica in onda. Not a lifestyle, just life. Rock Web Radio. We'll be right back. goes and go on. Look into my eyes and take my hands. I walk with you. Go into the happy road and find out that what you need, you left behind. Go into the happy road and go till the sun will lead astray. Ok, Kismet con Happy Road, tratto dal disco Shades of Clarity. Ci volete veramente parlare anche di questo pezzo? Questo è un altro brano che è nato in studio. Sì. Anche questo l'abbiamo registrato alla cieca, si può dire, nel senso ognuno aveva la avete sua spento idea. Le luci e via. Ognuno aveva la sua idea e siamo tutti entrati in studio senza sapere cosa avevano registrato gli altri. Sì, l'avevamo forse abbozzato una volta sola, proprio in studio. Proprio in studio lì, insieme. Durante le pre-production. Poi sì, veramente ognuno è arrivato lì, ha lasciato giù il suo riff. No, da lì sì. Poi abbiamo costruito dal riff iniziale. Anche insieme all'aiuto di Pablo, che salutiamo, sì. Non ci starà mai ascoltando, però insomma, tanto noi non ci ascoltava neanche mentre registravamo il disco. No, dai, ci ha ascoltato il nostro produttore. Forse ha ascoltato più lui le nostre canzoni che noi. Sì, forse sì. Ok, un'altra domanda. Ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano il vostro sound? Abbiamo fino a mattina, vero, per sì, rispondere a questa domanda. Ma speriamo. Ma la cosa bella di Kismet è che siamo tanto contaminati ed è la nostra arma in più. È un'arma in più quando riesci ad incanalarla in un nome, che in questo caso è il Kismet. Noi siamo riusciti a trovare la via, perché abbiamo comunque tutti ascolti diversi, fortunatamente tanti punti in comune, e i punti in comune si trasformano nella musica di Kismet. Ma secondo me è un insieme di quello che siamo noi. La nostra musica è proprio un insieme di quello che siamo noi insieme, noi cinque. Allo stato attuale credo che abbiamo raggiunto un'identità propria di di suono, per cui gli ascolti chiaramente incidono su quello che può essere a livello indiretto, su quello che possono essere le soluzioni, che ne so, di armonie, di melodie, però diciamo che quando ci troviamo insieme cerchiamo veramente di lavorare a quello che è la nostra musica, non prendiamo troppo i riferimenti degli ascolti, perché oppure ne parliamo tra di noi, ah che bello l'ultimo disco, l'ultimo singolo, ah che bella la soluzione, però non lo prendiamo come un riferimento, cerchiamo di farlo anche noi, perché ognuno credo che poi deve prendere le strade migliori per la propria musica. Non so, anche a me piacerebbe cantare come Robert Plant, però non ho la voce di Robert e devo cercare di cantare nel mio modo, come la mia voce. Ma canti come Albert, questo è ma giusto. Canto come Albert, infatti, infatti. La cosa molto bella che sta succedendo in questi anni, insomma, che abbiamo cominciato a avere anche, non dico un nome così internazionale, però una band che gira nel circuito underground, tanti ci dicono, accidenti, questo pezzo suona veramente Kismet, cioè e la gente comincia a capire qual è il nostro sound e a riconoscere un pezzo che è veramente nostro, diciamo. Casomai possono dire che avete una produzione di stampo americano. Sì, questo sì. Quello sicuramente. Ma infatti sicuramente, sì. In Inghilterra, in Germania, ma anche che ci è capitato un mese fa quando abbiamo suonato al Geox a Padova, durante il soundcheck una dello staff. Ricordiamo, avete aperto a... Ma poi in realtà è stato un festival, l'headliner è stato tolto, quindi abbiamo suonato noi insieme ad un'altra band e quindi siamo diventati noi headliner della serata, quindi... e quindi è stato, sì, è stato cambiato il bill. Tanto salutiamo Davide che è tossiduccia e poi arriva a ascoltarci. Ok, ci vediamo dopo, Davide. E questo per dirti, molti ci scambiano per non per italiani. Complimento o no, secondo me è un complimento, perché comunque cantiamo in inglese, sì. E quando qualcuno ti dice ah, non sembri affatto italiano, è un complimento, perché molte band che cantano in inglese a volte sono poco credibili come pronuncia, ma anche come produzione discografica, cioè... soprattutto come pronuncia, perché insomma sì, cantano in inglese, poi magari la pronuncia diventa drammatica. A me è capitato comunque di intervistare delle band in inglese. Capita ancora, ovviamente, sì, sì. È così, e voglio dire, quando si tratta di conversare in inglese, io vedo gente sudare. Ma sai, al di là, io invece mi... Se canti in inglese dovresti anche... Sì, questo è vero, sperare. Però ci sono persone che comunque, anche non sapendo, non conoscendo benissimo l'inglese parlato, hanno comunque una bella dizione mentre cantano, e non sembrano... e sembrano madrelingua, quindi... Cioè, cantare e parlare sono due cose diverse, proprio ci vuole, secondo me, uno studio... proprio del canto in inglese, in americano, comunque in straniero, cioè in lingua inglese. C'è gente che è nata a Los Angeles, sì, sì. Devo dire, per migliorare la propria dizione. Intanto vi saluta grande Alessio. Alessio. Ciao Alessio. Ciao Alessio. Ecco, lui è visto Going to mitico. È lui l'amministratore del fans club di The Pretty Reckless Italia. Ho già salutato prima e rinnovo i saluti, ho detto che si è instaurato veramente un gemellaggio con i The Pretty Reckless, con il fans club di The Pretty Reckless Italia, e chissà che non si possa ripetere, e speriamo, perché veramente abbiamo trovato dei nuovi fan e dei nuovi amici che ci supportano sul web, ma anche hanno comprato il nostro disco, quindi è bello sapere che insomma hai fatto una buona esibizione e hai lasciato il segno, e speriamo insomma di avere ancora possibilità in futuro di rivederli, ecco. Perfetto. Sì, dai, ascoltiamo Carry Me Down, la vostra power ballad, sì. E poi torniamo ancora con i Kismet qui ospiti a Rock Web Radio. Rock and roll. I breathed with you, and I knew your smile. The days size of those lips. I only touched lightly, but now I miss them. Carry me down over you. Onto the ground, and our love becomes true. Questa era la vostra ballad, Carry Me Down, oltre anche a essere un videoclip, il vostro primo videoclip tratto e che traina Shades of Clarity. Sì. E voglio dire, qualcuno ha scritto bella lo stacco power metal, il vostro amico Boniz. No, questa è stata poi, è il primo singolo del disco che dal lato può anche essere fuorviante perché comunque il disco ha altre sonorità, ma in realtà ogni singolo secondo me è fuorviante di un lavoro, cioè la gente deve abituarsi a comprarsi un disco e ascoltarlo per intero e cercare di capire tutte le sfumature, a ritornare soprattutto a comprarsi il disco, perché ricordiamo è comunque un insieme di sfumature il disco. Sì, appunto si chiama Shades of Clarity, ma ne approfitto per salutare una persona che come tutti gli amici che ci seguono che però ha subito un intervento, che è Chiara, una nostra amica, la vogliamo salutare. Ciao Chiara. E sta andando alla grande, quindi l'intervento è riuscito, quindi tutto a posto, però la salutiamo, e anche perché lei c'entra qualcosa con quello che sarà il prossimo singolo dei Kismet. Stiamo lavorando ad un progetto di video e di promozione del secondo singolo, è top secret, però stiamo lavorando a qualcosa e lei diciamo fa parte di questo progetto ha assunto, diciamo, la veste manageriale, quindi Ma sarà anche protagonista all'interno del video? No, sarà, non possiamo dirlo. No, non sarà protagonista, a meno che non voglia fare una comparsata. No, diciamo che si sta operando come mente. È stata operata, ma sta operando. Mi fa tipo da art director. Sì, ma più che art director, più manager. E quindi lasciamo fare a lei, che sicuramente farà un gran lavoro. Perfetto. Allora, l'esperienza durante le registrazioni, quali sono state le idee musicali che hanno contribuito alla realizzazione di Shades of Clarity e come vi siete trovati con il tecnico del suono che vi ha seguiti nel processo creativo? Beh, il produttore del disco, cioè il titolare dello studio, Pablo, è un mio carissimo amico, è un carissimo amico di tutti i Kismet. Con lui avevamo registrato già l'EP We Don't, che era poi l'inizio del disco We Don't. Ma sì, doveva essere a livello teorico doveva essere il nostro primo album. Poi abbiamo interrotto le registrazioni perché abbiamo vinto in quell'epoca il Tour Music Fest, che poi ci ha permesso di andare in Inghilterra. Ma hai suonato anche a Roma? Abbiamo suonato a Roma, al Piper due volte, e abbiamo vinto la finale al Piper la prima volta, e da lì poi abbiamo vinto come premio la partecipazione al primo tour in Inghilterra. E abbiamo deciso, stavamo registrando l'album, abbiamo interrotto le registrazioni, abbiamo scelto i quattro brani che erano già pronti e l'abbiamo confezionato in un EP, giusto per avere un materiale promozionale da portare in Inghilterra. Poi abbiamo fatto l'esperienza dei tour due volte in Inghilterra, Berlino, ci siamo rimessi in studio a lavorare su un disco vero e proprio e abbiamo riscelto lo Putrefaction Studio e Pablo perché aveva già partecipato, ci siamo trovati bene con lui. Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato e abbiamo fatto da capo tutto. Ricordiamo anche il lavoro di Icho agli 8 Studio. È vero, poi. Tecnicamente sia We Don't che Shadow Clarity sono stati concepiti e registrati ai Putrefaction, ma poi mixati agli 8 Studio di Vicenza. Ok. E poi il mastering di questo disco è stato fatto in America. Carl Saff. Quindi è Chicago. Chicago, bravissimo. Perfetto. Chicago. Visto che per il momento non vedo altre domande in chat, ve ne faccio un'altra ancora. Supporto di Shades of Clarity, ne parlavamo prima, avete girato il videoclip del brano Carry Me Down. Sì. L'esperienza durante il making of e nel caso qualche aneddoto magari curioso. Beh, aneddoti curiosi ce ne sono. No, beh, innanzitutto bisogna ringraziare una persona che è Alessandro Cattaneo. Ciao Alessandro. Che ci ha ospitati nella villa... che diciamo è un po' una bellissima location, si dice una delle due location della storia. La location è uno degli ambienti più storici della provincia di Lovigi. È un palazzo palazzo Cattaneo, poi della sua famiglia. Mi pare sia del 1500-1600. È di un secolo comunque. Comunque è un palazzo bellissimo e chiaramente il video ha, secondo me, una marcia in più, anche perché la fotografia e i luoghi di quella villa spaccano, e quindi sicuramente poi il lavoro è stato fatto, un bel lavoro da chi poi ci ha curato l'artwork, sempre Putrefaction e i due ragazzi Michele Moretto e Alessandro Cavestro hanno confezionato, secondo me, un bel video, ma chiaramente un ruolo chiave l'ha avuto la location di questo palazzo splendido, anche la Guia, e anche la Guia, la ragazza che è stata bellissima, è stata bravissima, insomma. Beh, un aneddoto potrebbe essere il possibile finale alternativo del video. Ma lo teniamo. Okay. Perfetto, intanto sono arrivate un paio di domande. Ella, Dear Sister, che chiede: avete un posto preferito dove vi piacerebbe suonare un giorno? E Marta chiede una domanda che di cui avevamo parlato all'inizio, cioè non ha sentito come avete scelto il nome della band. Allora, il nome della band è da un fumetto, Nathan Ever. Yes, Pregone dei Mari. Era l'episodio, e se ti piacciono i fumetti va a cercarti il fumetto. Comunque significa destino. Ecco, l'ha scritto in chat adesso Mirko. Esatto. E poi un posto dove vi piacerebbe suonare un giorno? Io dappertutto. Però c'è una città, io sono innamorato di New York, sono stato a New York qualche anno fa, e quello è un posto dove voglio... Quindi Madison Square Garden? Sì, ma a New York, non mi interessa, anche in piazza. Ma anche per strada in piazza di New York. Times Square. Times Square. Piazza a caso, insomma. No, dappertutto. Secondo me una band vuole suonare dappertutto, in ogni città, in ogni posto. Ma credo, forse si riferisce proprio a un locale, un prestigioso, qualcosa. Beh, chiaro che... Madison Square Garden, penso, risponda. Può andare bene, sì. Può andare bene. Anche Wembley Stadium. Arena di Verona. Ah, è vero. L'avevo messo nel culo. Un acustico. Non si può dire. Non si può dire. L'avevo messo, non si può dire. No, Arena di Verona, così per essere un po'. Anche perché io ho visto i Pearl Jam, ho visto i Deep Purple, ho visto Romeo e Giulietta. Beh, un bel acustico. Siamo in provincia di Verona qui, vero? Oh, sì, yes. Sì, sì. Una petizione, i Kismet in Unplugged all'Arena di Verona. È un attimo. Una cosa grande. Ciao Marco. Ok, a proposito, Carry Me Down, il significato di questa canzone? Beh, questo è un brano che ho scritto, è stato concepito con la chitarra acustica a voce, poi l'ho portato anche questa in studio alla band e abbiamo insieme cercato di riarrangiarla e di concepirla come una canzone, insomma, suonata con tutta la band. E parla, è una canzone da un lato sì d'amore, però in qualche modo crea un legame, una speranza su quello che può essere il, no, è il risultato che siete romagnoli adesso. Ah, forse l'accento che forse fuorvia. L'accento si sì, fuorvia. Ma Mirko più sembra romagnolo. Sì, perché noi cerchiamo a fare tutti gli accenti d'Italia. Sì, li facciamo tutti, dopo facciamo sentire romano. No, la parola chiave del testo è Yesterday is over now, but we can make a new tomorrow. Cioè, c'è sempre una possibilità per il domani di riuscire in qualche modo a reagire. E in questo caso, nella canzone, è chiaramente una richiesta d'amore che può essere corrisposta e che può trovare, diciamo, una soluzione di continuità, ecco. Perfetto. Nel frattempo ci ascoltiamo un'altra canzone entrata dal disco Shades of Clarity, si chiama Time. Loro sono i Kismet. Thank you.

E allora, sempre qui su un Rock Web Radio con Gianluca su Rock Selection, ospiti i Kismet from zona polesana, provincia di Rovigo, per presentare il loro disco Shades of Clarity. Allora, due canzoni molto differenti, una Time più sperimentale e l'altra qui Manzata sulle gengive. Parliamo un po' di queste canzoni. Beh, Time segna un, diciamo, un capolinea del disco. Crea uno stacco, uno spartiacque sì, più che capolino in effetti, uno spartiacque del disco. E capolino è l'ultima canzone, diciamo. Capolino, infatti, dobbiamo aspettare ancora un po'. Sì, però diciamo è un segno, sì, uno spartiacque, è un brano che diciamo dove abbiamo sperimentato sonorità che a noi piacciono, un po' progressive, psichedeliche. L'avevamo già fatto anche negli altri dischi, negli altri EP, negli altri dischi, e qui ci siamo sfogati anche. Abbiamo avuto il contributo di un carissimo amico che ha suonato in tutti i nostri dischi, che salutiamo, che è il maestro Marco Dainese, che ha suonato la viola in questo brano e ha suonato anche il brano, il piano in Carry Me Down. Ricordiamo che è veramente il sesto Kismet. Sì, il sesto Kismet è più di, ecco, di uno special guest. Il vostro George Martin. Ma diciamo che... non so perché non si è mai entrato nei Kismet, ma glielo chiediamo qua in diretta. Vieni con noi, maestro. Perché si gode solo le cose belle di Kismet, vero. Ma a dire di questo, Time è un brano importante per noi a livello di concetto, a livello sia musicale che lirico. È un brano profondo e io spero veramente che possa essere ascoltato da tante persone. Io lo vedo benissimo come una colonna sonora. Quando ascolto questo brano ho sempre delle immagini, oltre ad emozionarmi mi rimanda delle immagini come cinematografiche, quindi spero, insomma, qua sta succedendo qualcosa nel nostro schermo. C'è qualcuno che scrive basta che mi fate piangere. Tranquillo, io ricordo sempre una cosa: secondo me tutti meritano di ascoltare Time. Sì, io spero, ecco, che ci sia sempre più gente ma che possa, ve lo meritate, che possa ascoltare questa canzone, perché è un brano importante e impegnato. Poi c'è Quit segna, diciamo, ripartiamo con questo disco, con questa canzone molto aggressive, e, insomma, ha un, diciamo, un concetto molto più, più easy, che poi in realtà si è spento tutto da no, noi, no, vai tranquillo, quindi... vai tranquillo, ah, okay. Tra poco si riaccende. Ah, sa proprio di essere accende. Ok. Non si deve dire questa cosa. Non si deve dire questa cosa. No, noi però rendiamo partecipi agli amici che sono in chat di quello che sta succedendo. Abbiamo avuto una paura, un terrore folle. Ma adesso è tutto passato, state tranquilli. Sembrava Countdown to Extinction. Sì. No, al di là di quello, Quit è molto, dicevo prima, parla di... è una richiesta di uscire fuori dalla propria vita, quindi... vattene fuori, non ti do molte ragioni, però esci fuori. Cioè, diciamo... cercare appunto di buttare fuori quello che è inutile dalla tua vita, anche le persone inutili che diciamo non ti permettono di in qualche modo di andare avanti. E a volte c'è bisogno di tagliare corto. E infatti, a proposito di tagliare corto, no? C'è Elena, Dear Sister, che chiede: prima di lasciarvi, voglio farvi due ultime domande. Uno, quale rock band in assoluto vi piacerebbe aprire i concerti? Due, quanto è sexy Taylor Momsen del 1-10 per voi? Allora, Dear Sister, che è Elena, vero? Sì, Elena. Sì, Elena. La Elena, vostra allora, fauna, a me piacerebbe tanto aprire, cioè suonare con una band che attualmente amo, sono Alter Bridge. Piacerebbe suonare con loro, o Mark Tremonti, insomma. E tra l'altro abbiamo molti amici in America della crew di Mark Tremonti e degli Alter Bridge che ci seguono. E tra l'altro Tremonti ha twittato un nostro video, Carry Me Down, e gli è piaciuta la canzone. Sì, perché usavo la sua chitarra. In effetti, sì. Io dico Alice in Chains. E io me li ho appena rubati gli Alice in Chains, per cui Soundgarden piacerebbe. Bravissimo. Stavo proprio, me li hai rubati tu, quindi devo trovarne un altro ancora. Per Jam. Piacerebbe aprire per Jam, sì, magari un concerto in acustico. Ah, ok. Chissà. Quanto è sexy Taylor Momsen da 1-10 per voi? Ma ti dirò, sono onesto. Devo chiedere quanto sono sexy Kismet a Taylor Momsen. Vero. No, beh, è una figa pazzesca sul palco, cioè... però io si può dire fino a pazzesca sì, sì, era... si può dire, si può dire la... era molto interessante anche la sua amica che la segue nei tour, la sua... sì, molto bella Taylor comunque, però Taylor sì, è top, veramente top. Ok, adesso non mi ricordo se avevo da farvi una domanda, ma comunque io direi, visto che si parla di Shades of Clarity, recensioni musicali le più importanti, quali giudizi di chi le ha scritte? Beh, è uscito un po' in diversi portali, webzines, cose, ne hanno parlato anche per la maggioranza di tutti, anche riviste, anche in Rock Hard mi pare che c'è su Giugno, Hard, Luglio, Guitar Club di settembre, anche in riviste inglese. La cosa bella sono tutte comunque recensioni. Recensioni sono positive, sì, c'è stata positive. Una classifica anche in Olanda in cui siamo arrivati intorno al 33esimo posto di gradimento su una scala da 1 a 100, non è male, insieme avevamo Joe Bonamassa e Wall of Love, cioè un posto davanti a noi, sì. Per dire. Intanto una bella Elena vi ha ringraziato. Ci è uscita, comunque ciao Elena. Ciao Elena. Si sta ascoltando, ma in streaming. Comunque la cosa positiva sono i feedback di qualsiasi rivista, qualsiasi webzine, fanzine, così che ha recensito Shades of Clarity. Abbiamo sempre avuto voti lusinghieri, commenti lusinghieri, a volte anche troppo. Cioè. Sì, quasi imbarazzanti a un certo punto. Ma quello che chiediamo è che sia il pubblico a recensirlo, cioè ad ascoltarlo e a scriverci. Perché in tanti ci hanno scritto chi ha comprato il disco su iTunes oppure chi ha comprato il supporto fisico, che merita secondo me l'artwork. Quindi su Amazon si può ordinare in qualsiasi parte, in Italia, in Europa, in Inghilterra, in Germania, insomma, ti arriva in 3-4 giorni arriva il disco fisico, e in particolare è bello ricevere messaggi di chi ha ascoltato il disco e che lo ha apprezzato e che magari ti scrive. Sono stati alcuni messaggi che vi hanno colpito in c'è stato uno in particolare di tra l'altro scrive adesso, saluta il sesto Kismet, ciao Marco. Grande. Ma noi non ti vogliamo più, però, perché una volta eri professionale, adesso non lo sei. No, in realtà questa è una battuta che però tutta la gente non capisce, non capirà. No, c'è stato un messaggio di un amico che ha un nome molto fallico, sì. È un nostro amico che è Giuseppe, anche lui ci ha conosciuti, ci seguiva anche prima del concerto con i The Pretty Reckless, però mi ricordo che prima del concerto, quando noi siamo arrivati alla Limelight, è venuto dietro dove avevamo il nostro furgone per farci una foto con noi, abbiamo scambiato quattro chiacchiere, e poi mi ricordo che ha avuto un problema particolare, delicato di salute e molto, poi molto ho ricevuto grave. Qualche settimana fa un messaggio privato dicendo che ha vinto, diciamo, la sua battaglia personale con questo problema di salute, ed è stato compagno compagna di questa sua lotta alla musica dei Kismet, ed è stato un messaggio che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Vale mille recensioni su tutti i blog, assolutamente, ma vince un milione a zero. E mi ricordo le sue parole: in ogni mia vittoria c'è la vostra musica. E penso che è un messaggio che mi ha fatto capire come a volte la musica può veramente essere magica, ecco. Ha questa forza anche di guarire le persone, non è una cosa così campata per aria, ma sono molte le testimonianze di persone che addirittura si sono risvegliate ascoltando determinate musiche, non solo musica rock, musica classica, ma la musica rock è stata, voglio dire, ha salvato molte persone. Sì, ma più che altro per chi ama la musica, chi crede in queste cose, ha sicuramente un potere terapeutico che diciamo in genere l'arte ha. Sì. E quindi noi siamo orgogliosi di questa cosa. Ecco, ecco, idee e progetti futuri dei Kismet? Ma continuare a suonare, cercare i concerti fighi. Qualcuno prima ci ha chiesto a chi vi piacerebbe aprire. Noi vorremmo al più presto riuscire a ritornare all'estero per fare un tour e in Italia farci conoscere molto di più, diciamo, al grande pubblico. È difficile, però ci proviamo. E sicuramente molto influirà anche la promozione del quello che sarà il nuovo singolo. Però diciamo che abbiamo anche nell'imminente cose interessanti. Viene in Italia una band sudafricana che io amo, i Prime Circle. Io conosco il bassista e quando hanno buttato fuori le date italiane mi ha subito scritto dicendomi: che dici, vieni a suonare con noi. Cioè è bellissimo sapere che una band internazionale, perché vi assicuro i Prime Circle riempiono i palazzetti, gli stadi in Sudafrica, anche le arene, ti scrive e pensa ai Kismet in Italia. Significa che forse hai molta credibilità all'estero e magari in Italia l'hai un po' meno. È un discorso che abbiamo fatto su Facebook, sì. Perché il musicista all'estero viene riconosciuto come una persona, un lavoro, diciamo, una cosa importante, e quindi magari in Italia qui abbiamo sempre questo problema delle scale quasi gerarchiche nell'ambito della musica, invece quando sei all'estero, anche se tu sei un artista emergente, d'altra parte è un artista famoso, a meno che non sia tipo, non so, Tommy Lee, che c'ha il guardiano, mi ha spiegato che ha la guardia del corpo alta 2 metri, un portoricano, questo mi ha detto il chitarrista di Celeb Car Crash, che questa guardia portoricana del corpo dice vai fuori dalla scatola. Sì, per il resto ho detto personaggi come Dave Navarro, come Chad Smith, voglio dire, Dodge Peppers, poi ti parlano così come se fossi veramente un collega. Deve essere così, dovrebbe qui in Italia, purtroppo. Ma deve essere così. E ti dico, domenica siamo al Work in Progress ad Albignasego insieme a loro, è una band fighissima. E il locale è un locale recentemente ristrutturato, quindi io spero, insomma, di vedere molta gente, perché ci saremo noi e daremo il massimo, chiaramente, ma anche i Prime Circle sono una band che merita, ecco, e spero che ci sia pubblico, ecco. E probabilmente se ne accorgerà anche il pubblico italiano quando vede di solito queste band straniere che vengono e che, come voi, rilasciano questa energia incredibile sul palco. Questa è una cosa che molte band emergenti, ne parlavamo prima, forse non hanno ancora afferrato, cioè quello di riuscire sì a fare un concerto, ma anche a riuscire a reggere, a trascinare, a fare una sorta di show, che è anche un concerto. Ma è quello. Perché è importante non perdere l'adrenalina, il feedback. Molte band magari si fermano, sai, c'ho un attimino da accordare la chitarra, cioè, scusa fonico, non è che ti dovresti tirare su un attimino il volume, non mi sento in cuffia, no, perché c'è queste cose qua che in Italia sembrano cioè, vai all'estero, provaci a sistemare le cose. Non hanno neanche le cassospie all'estero. Sì, no, ma voglio dire, a me hanno detto che i fonici non li devi neanche toccare all'estero, fanno i loro volumi. Sì, poi guai, stop. Ma siamo abituati, punto, mi dispiace dirlo, perché non mi piace parlare delle cover tribute band, però siamo un po' abituati agli spettacoli dei festival, le sagre della birra, diciamo, dove ci sono le cover band, tribute band, che fanno quello spettacolo simpatico, simpatico, dove poi il vocalist, il frontman, il chitarrista fanno il siparietto di turno, che ci può stare anche in uno spettacolo rock di musica inedita, però secondo me deve essere un po' più, come dire, più elegante o più naturale, piuttosto più, che più costruito, professionale. Più professionale, ecco. Secondo me la gente deve appassionarsi alle tue canzoni, poi ci sta lo stacco, il dialogo, anche il confronto umano tra il frontman o comunque il pubblico, il feedback, però alla fin fine sei lì per fare il tuo spettacolo scenico e le tue canzoni, più che star lì a fare tanti discorsi, ecco. Ok, mi ero dimenticato i famosi 3 dischi da portare sull'isola deserta. Ah, è difficile. Lo so, è un giochino. Ma ne vuoi tre a testa o tre a testa? In tutto? Tre a testa, più difficile. È difficilissimo. Inizia tu, Mirko. Sì, allora, beh, innanzitutto non si può andare in un'isola deserta senza Are You Experienced? Jimi Hendrix, che è un pilastro fondamentale, è Gesù Cristo della musica, quindi bisogna averlo. Questi giorni si è parlato anche di Jesus Christ Superstar, avete sentito. Porterei un disco moderno, un disco degli Alterbridge, non so, Blackbird. Beh. Scusa. E come terzo disco porterei Shades of Clarity, penso. Allora io spero di essere nell'isola deserta insieme a Mirko, così ha tre dischi fighi. No, io porterei The Doors, perché in un'isola deserta, se poi devo morirci, voglio ascoltarmi come ultima canzone The End. Ecco. Poi mi porterei qualcosa degli Alice in Chains, avrò sicuramente bisogno di sentire la voce di Lane Staley, e mi scelgo Dirt. Gran disco. E poi l'altro disco, una voce femminile, stiamo pensando, ma a me piace un casino Tina Turner, per cui una qualche collezione di Tina, giusto per avere una voce femminile, e poi ci penserò io a cantare, insomma, quindi. Ma Tina Turner negli anni 80 oppure Tina Turner con il marito, quindi? Ma anni 80, mi piace. 80, quindi Simply the Best. The Best, sì, dai. Private Dancer. Sì, sì. Altre cose. Mirko? Io lo so. Io l'ho già detto, grazie. Beh. Ah, scusa. Krivets. Fra il terabyte di musica che ascolto, ma tre dischi che mi hanno sconvolto. Supernova di Soundgarden. Tre giolone. Giusto, di giolone. Vero. Ok, siamo in treno in isola deserta, non ci portiamo un disco di giugno. No, ho paura. Ma siamo tutti nella Supernova dei Soundgarden, Anima dei Tool. È vero, Tool. Ottimo. No, voglio nominare un gruppo di amici che hanno fatto, secondo me, un album della Madonna, sono i Devotion, Video Set. Yeah. Ciao Devotion. Ok, allora adesso andiamo con Lonely Place e poi avremo le ultime battute per quel che riguarda l'intervista di Kismet qui su Rock Web Radio. Allora ragazzi, Lonely Place, Kismet, è tratto dal disco Shades of Clarity. La canzone? La canzone è... significato, ecco, insomma. Il significato Lonely Place, beh, questa è la canzone del disco, è sicuramente molto più... il testo è molto introspettivo, diciamo che è un viaggio nel proprio io, nel proprio cercando insomma di trovare delle risposte, delle verità, o comunque di riuscire a, in qualche modo a celare quelli che sono un po' i lati nascosti e riuscire anche a superare quelle che sono un po' certe difficoltà nel capire chi siamo e cosa vogliamo essere, diciamo. Quindi il concetto di onestà, di verità e di forza a volte insomma vengono concepiti in modo sbagliato, e Lonely Place è, diciamo, una rivalutazione di queste cose, diciamo, ecco. E poi chiaramente lascia libera interpretazione a chi legge il testo e quindi individua magari certe parole chiave, può assumere un significato diciamo più o meno forte e significativo, appunto a seconda di chi lo legge, di chi vive insomma queste parole, queste sonorità. Perfetto ragazzi, adesso prima di ascoltare poi l'ultima canzone, gli ultimi arrivato... due mi pare, ci mancano due canzoni. Ho sbagliato? Sì, anzi ne abbiamo altre due. Allora mi sto sbagliando, andiamo avanti allora direi. Cosa possiamo ancora chiedere? Intanto invitiamo sempre a chi ci sta ascoltando in chat a fare delle domande ai ragazzi. A proposito del vostro tour, dei vostri tour esteri, no? Oddio, Davide ha detto che non gli si apre YouPorn, non so perché, ma comunque è, ecco, questione di hashtag. Comunque, ecco, una cosa che... Dovremmo mettere il disco in download su YouPorn. Quella è la mossa commerciale del nuovo millennio. Credo ci sia già. Ma stanno iniziando, adesso io ho letto una notizia sul web che sta iniziando, non mi ricordo più che sito porno, di streaming porno, sta iniziando anche a produrre band, a mettere video musicali. Non mi ricordo più quale quindi sia. Investono anche negli emergenti. Sì, ma non so se emergenti, comunque... Domanda a voi, vi si apre? Siamo malissimo. Negli anni 60 c'era un programma che si chiama Playboy After Night, ed era condotto da Hugh Hefner, il boss di Playboy. Invitava delle signore band, Grand Funk Railroad, Iron Butterfly, i primissimi Deep Purple. Esistono dei filmati dove li invitava nella Playboy Mansion. Quindi, no, noi pensiamo sempre, no, vedi, Playboy, che pensiamo di essere innovativi, invece no. Vedi, stiamo ritornando allora a quello si che ritorna. Tour esteri, cosa dicevi? Sì, ecco, Davide, domanda, voi si apre YouPorn? Ah, no. Certo, nessun problema. Ecco, proviamo adesso in diretta. Io ho letto, sì, più a voi vi si apre. Non hai... Ha detto sì, ma mettono in video solo di gruppi che spaccano il culo. allora, però, allora cerca Kismet. Ci vogliono delle band cool, in effetti. Ok, allora, a proposito dei vostri concerti live all'estero, avete dei progetti futuri? Avete un obiettivo, una qualche altra, oltre all'Inghilterra, magari la Germania? Avete suonato insomma in Inghilterra e in Germania? Avete qualche altro obiettivo in Europa? In qualche altra? Beh, intanto Europa dell'Est, sicuro. Insieme non siete gli unici. Insieme al maestro Denese, abbiamo anche il nome del tour. È un bacino di utenza molto valido, quello dell'Europa dell'Est. Assolutamente. Molto spesso non si crede, ma ci sono degli eventi nel rock metal, parlo, che sono paragonabili al nostro Heineken Jamming Festival, che succede una volta all'anno, ma là succede una volta al mese, per dire. Ma ormai tutti i festival, festival all'est c'è scritto, c'è che sarà, ecco, vedi, sarà l'abbreviazione di grande festival. Boss. Il boss ha capito una delle chiavi di volta della nostra idea. No, in realtà ci sono festival fighi, voleva scrivere. Che sì, probabilmente il tasto là è vicino a lei, guarda. E comunque è Europa dell'Est, ma comunque anche fare un bel tour in Germania, Belgio, sì, insomma sì, Centro Europa. Nord Europa, Centro Europa è un posto dove si ascolta molto la musica. E poi io il sogno dell'America, secondo me. Secondo me chi smetti grande... in America spaccherebbero di più. Io invece voglio andare controcorrente, Giappone. Ma non è proprio, sai, così tanto controcorrente il Giappone, perché i giapponesi rispetto a loro. I giapponesi sono, se sfondi nel mercato giapponese, hai dei fan. Ma mi fido stupido, l'ho detto con cognizione di causa, so benissimo. Te li trovi anche in doccia, devi stare attento. Le giapponesi soprattutto. Ma anche i giapponesi. E non sarebbe male, dai, i giapponesi. I giapponesi sono molto belli. Preferisco le donne dell'est. O qualcuna. Beh, diciamo che le giapponesi belle sono molto belle, ma le giapponesi brutte sono molto brutte. Io quoto il boss, diciamo che diamo Europa dell'est. Ecco, vabbè, insomma, dai. Allora, ascoltiamo un Feel the Vacuum tratto dal vostro disco Shades of Clarity. A proposito di riempire ci il vuoto. Ci sta perfetto. Lo ricordiamo, non l'abbiamo ancora ricordato, l'etichetta Dust on the Tracks Records. Ah sì, è vero. Etichetta tedesca. Che poi ho scoperto è la stessa etichetta del nuovo disco dei miei amici di Hearts of a Hero. Dai. Ma dai. Sì. Sono i miei amici, li ho intervistati di tempo fa e speriamo che tornino dall'Inghilterra magari per fare un'altra bella intervista. Sì. Sono dei bravi ragazzi e anche se ultimamente non fanno tanti concerti, ma hanno una grande energia. Ah, bene. Va bene, allora, per voi i Kismet con Feel the Vacuum. Kismet, Feel the Vacuum, tratto dal disco Shades of Clarity, uscito per Dust on the Tracks Records. Significato di questa canzone? Beh, Feel the Vacuum è poi la chiusura del disco Holy Words and Pain. Sono canzoni che in realtà sono legate tra di loro. A livello testuale ho parlato di quello che è, diciamo, il binomio, diciamo il dualismo tra scienza e religione. E infatti, in modo un po' anche in chiave ironica, diciamo, Phil DeVacuum parla di uno scienziato che diciamo, sta lavorando ad un'acqua segreta che gli permette di avere, diciamo, dei superpoteri, di essere un superuomo. Però nella fretta, nell'ansia di creare questa pozione magica. Pozione che gli dà questi superpoteri, gli cade, rompe tutto, e quindi tutto il suo lavoro, tutti gli anni per cercare questa giusta ricetta cadono sul pavimento, e quindi diciamo invano si dispera. Non diventa Mr. Hyde. Diventa un po' quello che la scienza prova ad essere nei giorni nostri, ad essere una risposta come, diciamo, quasi divina, no? Molte volte il progresso, anche la ricerca scientifica, a volte può avere sicuramente finalità, come dire, positive, però molto spesso cerca di essere una risposta quasi a sostituirsi, quasi ad essersi una sorta di fede religiosa, comunque di risposta. Se non ricordo male, alcuni libri di fantascienza, libri sì, avevano questo obiettivo proprio di porre un discorso scientifico ad una sorta di, come dire, di eccessività nel influenzare l'essere umano per il futuro. Sì, sì, sì, ma questo, diciamo, chi crede... la scienza ha comunque influenzato l'essere umano. Sì, chi crede nella religione, chi crede invece che nella scienza, è quello che può essere una risposta materiale, scientifica, matematica, e chi invece è più fatalista, oppure dà delle risposte a quello che succede, a un, diciamo, un volere divino, ecco, ultraterreno. Sì, ci sono anche dei film di fantascienza degli anni 60-70 che danno una visione quasi catastrofistica del futuro, di un futuro dove i robot si ribellano agli uomini, dove addirittura l'uomo cerca, in un momento in cui il mondo sta quasi per distruggersi in un olocausto nucleare, di creare addirittura una sorta di umano che fermi la guerra nucleare. Sì, c'è anche in termini. Non siamo arrivati a tanto con questo pezzo, però. Però c'è arrivato, per esempio, Michael Moorcock, che è stato paroliere degli Hawkwind, che ha scritto una trilogia, si chiama, adesso mi sfugge, ma il primo libro di questa trilogia è diventato un bellissimo film che io ho guardato tipo 25 anni fa su Rai 3 di notte. Si chiama Alpha Omega, il principio della fine, sì. Il titolo originale si chiama The Final Program, e il film ha un finale un po' particolare, però è una sorta di monito all'uomo che vuole cercare qualcosa di voglio dire ultraterreno, creandolo in laboratorio, ma che poi alla fine si ritrova all'inizio della sua genesi umana. Sì, sì. Quindi una sorta di monito all'umanità per il futuro. Beh, alla fine Phil DeVacuum, riempire il vuoto è trovare una risposta, e nella canzone è trovare una risposta con la scienza. E poi è chiaro, non impongo una sola chiave di lettura. C'è chi crede che la scienza possa essere la risposta, chi invece crede che sia l'unica risposta, e chi invece magari crede che sia only words and pain, cioè la religione, la fede, oppure che magari risposta. Cerchi di superare determinate determinati confini umani, onde rischiare magari qualcosa che non conosciamo. Sì, sì, è così, va bene. Ok ragazzi, visto che prima mancavano due canzoni, adesso ne manca una sola. Manca una sola, sì. Siamo arrivati al momento promozionale, perciò siccome voi dite che alcuni vostri fan dicono non riusciamo a trovare il disco, dove lo possono trovare? Dappertutto, devono scrivere su Google Shades of Clarity, Kismet, e trovano i link, ma anche nel nostro sito, insomma, ci sono i link su Facebook, trovano il link per acquistarlo su Amazon, iTunes, anche su Deezer. Si può ascoltare in streaming su Spotify, ma diciamo in tutti i digital stores, anche se Virgin Media Digital Stores. Qui stiamo parlando sempre della versione digitale. Versione digitale, versione fisica su Amazon. Si può ordinare, insomma, su Amazon.it, e chi è in Inghilterra lo può ordinare in Inghilterra, e ti arriva a casa in 3, 4 giorni, 5 giorni. Oppure i vostri concerti. Oppure i nostri concerti. E la distribuzione in Italia è anche curata da Audio Globe, per cui anche dal sito di Audio Globe si può ordinare la CD. Quindi si può trovare fisico. Anche in certi anche negozi, esatto, su Feltrinelli. Si può ordinare, quindi anche nel proprio negozio si chiede, che magari si appoggia Audio Globe, si può ordinare. Oppure direttamente dal sito Audio Globe. Poi bene, dai, il nostro sito, insomma, ha il link a tutti i social, a Facebook e Twitter. Sono importanti nel senso che noi siamo contenti perché comunque abbiamo dei buoni feedback, abbiamo dei fan molto attivi e che ci supportano anche lì, ma poi venite ai concerti che lì, insomma, ci divertiamo di più lì, sicuramente. E a proposito dei concerti, quali sono i prossimi concerti? Allora, domenica, ripeto ancora, siamo a Work in Progress ad Albignasego, Padova. Provincia di Padova. Provincia di Padova, con i Prime Circle. E poi suoniamo, saremo 15, date confermate che mi ricordo, 15 novembre a Vicenza con una band vicentina, i Fearful Bone Shake, mi pare sia... Una band che abbiamo conosciuto da poco e insieme a loro abbiamo organizzato questa data a Vicenza. Poi abbiamo delle date in provincia di Rovigo a dicembre. Insomma, sul sito comunque, su Bands in Town e su Facebook e sul sito ci sono tutte le date, quindi da lì si può seguire. A proposito di date, so che voi fate anche qualche piccolo mini tour acustico. Sì, facciamo anche date acustiche in unplugged, in piccoli locali. Ci divertiamo a manetta a suonare in acustico perché sono le stesse canzoni, ma sono tutte diverse. Riarrangiate. Hanno un'atmosfera sicuramente sì, diversa. Oh yes. Avete già qualche idea per quel che riguarda tour esteri? O... Ma stiamo lavorando adesso con l'anno nuovo, vediamo dove riusciamo. Quindi per il momento puntate, diciamo, sull'Italia? Sì, e sì, adesso vorremmo fare qualche mese in Italia, qualche data figa e poi vediamo. Va bene, dai ragazzi, se non avete altro, se qualcun altro in chat non ha altro, io direi che possiamo intanto ringraziare i Kismet. Grazie a te. Perché sono stati straordinari, è stata una puntata veramente bella. Grazie Gian, ci siamo divertiti. Con voi magari ci rivediamo, abbiamo una mezza idea di fare qualcosa di particolare. Poi per il resto io direi, noi intanto ci risentiamo con la prossima settimana con Rock Web Radio. Poi per il 29 abbiamo un'intervista con una band veronese che si chiama Pentasia. Cosa dire altro? Ringraziamo tutti quelli che ci stanno ascoltando attraverso lo streaming, attraverso la chat, li invitiamo insomma a salutarci, voglio dire, a darci delle impressioni riguardo alla puntata di questa sera perché sembra molto importante. Chiudiamo questa puntata con Hollywood Champagne, se volete un po' spiegare anche quest'ultima canzone. Beh, diciamo appunto è l'altra faccia, diciamo, l'altra risposta, che è la fede, la religione. Holy words and pain, parole sante e dolore, un po', secondo me sono due elementi che in quasi tutte le religioni più importanti si trovano. Io vedo che tutte le, diciamo, le professioni di fede vogliono che i fedeli siano in qualche modo, tra virgolette, sottomessi a quello che è la parola santa e poi avere un atteggiamento come di dolore. Ma la sofferenza e il dolore solitamente sono i profeti o comunque le divinità che li provano, ma in realtà poi anche il fedele, per, diciamo, riuscire a trovare poi la via della liberazione o comunque una via di risposta, deve comunque soffrire. E poi, insomma, bisognerebbe leggere il testo, ha dei richiami anche un po' a vicende bibliche, ma anche vicende di altre religioni, non solo quella cristiana. E quindi secondo me è un bel brano che mi piacerebbe, insomma, che qualcuno leggesse il testo, lo ascoltasse e quindi si comprasse il disco, insomma. Esatto, ovvio. Con la piccola provocazione che la E commerciale non è a caso. Perfetto. Diamo gli ultimi appuntamenti per quel che riguarda tanto il vostro maestro dice ciao Fioinotte, Kismet Rule, ci risiede in Plugget. Yeah. Ecco, volevo dare altri appuntamenti per quel che riguarda Rock Web Radio, perché domani sera ci sarà Metal Storm condotto da Oscar Castiglioni, debutta qui su Rock Web Radio, e poi il 20 ci sarà, tornerà il nostro Fabio Hank Blues con Ti racconto il blues, e avrà un ospite via Skype che è la bravissima Veronica Sberge, una musicista della provincia di Bergamo, oggi adesso vive a Milano. Scusate. che ci presenterà il suo nuovo disco che si chiama The Mexican Way, quindi in collegamento Skype Flavio avrà Veronica Sbergia, e poi ovviamente Rock di Sera il martedì sera con Davide Biagini. Seguitelo perché insomma ci sono tantissime band, magari ci scriverà anche le prossime ospiti, perché adesso sotto mano non abbiamo il discorso delle interviste, ma comunque la prossima settimana con la Valex ci sarà anche Rock di Sera, sempre in onda alle 21.30 il martedì su Rock Web Radio. Per il resto vi salutiamo e vi rimandiamo a mercoledì prossimo e ai prossimi ospiti di Gianluca su Rock Selection. Yo, rock and roll, rock ragazzi. And roll. Yeah. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Hollywood Champagne, questi sono i Kismet. I told you wrong.